bello. Vorrei condividere con voi questa mattina sulla preghiera, no? Quando ero piccolo, mia madre mi aveva insegnato una preghiera che io, prima di andare a dormire, la recitavo ogni sera prima di andare a dormire. E la dicevo di memoria, no? Potete immaginare quale preghiera è? Il Padre Nostro. Ma lo facevo anche quando andavo alla messa, bueno, o quando volevo qualcosa speciale, volevo dire tanti, 5, 10, non lo so quanto. Però no, non capivo quello che dicevo, lo dicevo tutto di memoria, senza pensare, senza riflettere in quanto importante è questa preghiera del Padre Nostro. E perché è importante? Sapete perché è molto importante? Perché Gesù è stesso chi l'ha insegnato. E Gesù è stesso, quando i suoi discepoli le chiedevano di Signore come pregare, lui ha dato questa preghiera, l'ha dato a noi come un esempio, come un modello di preghiera. E nel Padre Nostro stanno messe tutte le cose più importanti nella nostra preghiera, nel nostro rapporto, nella nostra relazione con Dio. Sta nel Vangelo di Matteo e nel Vangelo di Luca, sta il Padre Nostro. Volete con me che questa mattina possiamo pregare, possiamo analizzare e possiamo pregare tutti insieme questa preghiera del Padre Nostro? Lo volete fare? Amen, lo facciamo insieme? Amen. Possiamo leggerlo? Mi metto qui. Come ho detto, è una preghiera molto importante perché è Gesù stesso, non è l'Apostolo Paolo, non è nessun discepolo, è Gesù stesso che ci sta insegnando come pregare. Per quello è molto importante. Voi dunque, dice Gesù, voi dunque pregate così. Padre nostro che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Aspetta, possiamo farlo tutti insieme? Lo sappiamo, facciamo tutti insieme. Iniziamo di nuovo. Voi dunque pregate così. Padre nostro che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetteci i nostri debiti, come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. E non ci esporre alla tentazione, ma librarci del maligno. Perché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria in eterno. Amen. Amen. Amen. Che bello, no? È molto, molto importante. Sì. C'è un prima del Padre Nostro, che lo voglio dire veloce, che nel verso prima dice, voi quando pregate, dice, chiudete, entra nella tua cameretta e chiusa la porta, rivolgi la preghiera al tuo Padre che è nel segreto, e il tuo Padre che vede nel segreto ti darà la ricompensa. E dopo dice, non usate tante parole, perché le parole non sono tanto importanti, lo importante è che sono del cuore, non importa lo belle delle parole, possiamo dirlo in una maniera molto semplice, però l'importante è che la nostra preghiera esce del cuore. E non fate dunque come loro, come chi vuole essere visto, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che le chiedete, già Lui sa. Anche le possiamo chiedere con le parole più semplici, ma Lui sa che cosa abbiamo di sogno. Vorrei che facciamo questa preghiera tutti insieme e andiamo verso per verso a pregare, a analizzare e a pregare verso per verso. Andiamo al primo verso, il verso 9. Voi dunque, di nuovo Gesù sta parlando a noi, voi dunque pregate così. Padre nostro che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome. Se c'è qualcuno che conosce al Padre, sapete chi è? Gesù, il suo figlio. Lui lo conosce bene, lo conosce bene. E se c'è qualcuno che conosce al figlio, quello è il Padre. Conosce bene al figlio. E Gesù che conosce bene al suo Padre, sa perché lui, qual è il motivo, perché lui ha creato tutto l'universo. Ha creato a noi, ha creato tutto l'universo. Lui lo sa bene, Gesù sa bene qual è il motivo. Il proposito eterno di Dio, quello che chiamiamo il proposito eterno di Dio, è di avere molti figli che assomigliano a Gesù, molti figli che possiamo assomigliare come Gesù. E Gesù lo sa bene. Qui è tutto l'Evangelo. Dio ha fatto tutto perché vuole avere molti figli. che assomigliano a Gesù. E come Gesù lo sa molto bene, dice: voi pregate così, Padre nostro, Padre nostro. Cioè, l'altro giorno è successa una cosa che mi ha fatto ricordare quando i miei figli erano piccoli. E quando andavo a prenderlo nella scuola, io avevo il mio ufficio vicino alla scuola, così andavo a prendere alla scuola, e loro uscivano dalla scuola correndo, gridavano, e mi abbracciavano e mi salutavano. E questo è stato perché una settimana fa eravamo lì sopra, stava il pastore Mirko, stava credo il pastore Pinuccio, Sofia, eravamo un gruppo che stavamo lì sopra, e il pastore Giorgia con Giovanna stavano salendo per le scale, noi eravamo lì chiacchierando. Quando salivano per le scale, quando Giovanna, la figlia del pastore, ha visto il gruppo, ha guardato a tutti e dopo l'ha visto al papà, gli ha corso verso il padre e gli ha gridato: papà! E gli ha abbracciato. E questo mi ha emozionato perché mi faceva ricordare i miei figli quando erano piccoli che facevano lo stesso. Ci sono due persone che possono toccare la fibra più forte del mio cuore, quelli sono i miei figli. Io ho visto quella scena, era un spettacolo, ma non era un spettacolo soltanto vedere a Giovanna correre verso il papà e abbracciarlo, era un spettacolo vedere la faccia di Mirko. Lui stava così con tutte le bava che cadevano. Ma logico, ma questo mi ha emozionato e mi ha fatto ricordare questo. Gesù sa come è il Padre, sa quanto importante è per Dio che noi le possiamo chiamare papà. Sapete una cosa? La paternità, il ruolo di Dio come padre, la paternità di Dio è molto, molto importante. Non so se riusciamo a capire l'importanza che la paternità di Dio, avere a Dio come padre, quanto importante è per noi, però non soltanto per noi, quanto importante è anche per Dio questa paternità di Lui, è il suo cuore. Ha creato a noi, ha creato a tutti perché possiamo diventare. Lui è il nostro Padre, Lui ci ha creato, però ci ha dato anche nuova vita in Cristo Gesù. Gesù è venuto, questo per me, per quello dico, qui sta tutto l'Evangelo. Gesù è venuto del cielo, è sceso nella terra, ha preso forma umana, ha morto in una croce. Per che cosa? Per che cosa? Perché noi possiamo diventare figli, figli di Dio. Sarà importante la paternità di Dio? Sarà molto importante? Mamma mia, io mi emoziono con questo. Quanto importante Dio. Dirò una cosa, forse posso sbagliare, no? Vi ricordate il battesimo di Gesù? Quando Gesù esce dell'acqua, si apre il cielo, viene una colomba e dopo si sente una voce, un grido. Questo è il mio diletto figlio, amato figlio, nel quale mi sono compiaciuto. Non so che cosa è successo lì. Ha successo qualcosa. Io lo credo così, lo vedo, forse sbaglio. Credo che questo non stava nel programma. Però Dio era così contento, era così felice di vedere al suo figlio amato, che ha gridato, forse ha gridato troppo forte e si è sentito nella terra. Non so, o forse ha voluto dirlo alla terra, però qualcosa è successo lì. Questo è il mio figlio amato. Questo è il cuore di Dio. Vi ricordate l'altra storia, la del figlio prodigo? Questo anche mi fa riflettere. Ma questo che sto dicendo è tutta la Bibbia. Gesù ha dato l'esempio del figlio prodigo. La conosciamo la storia. Il figlio ha perso tutto, sta tornando a casa, sta dicendo: dirò a mio padre, ho peccato contro il cielo, contro te, non sono degno di essere tuo figlio. Ma quando lui stava tornando a casa, il padre lo ha visto. Del padre. Questa storia ci racconta chi è Dio. E Dio non è stato il figlio, forse sì, però non lo dice la Bibbia, che il figlio correre verso il padre. È stato il padre, quando ha visto il figlio, correre verso il figlio e abbracciarlo. E lì si sono abbracciati padre e figli. Per questa immagine, come un bambino, noi dobbiamo correre verso il nostro padre e dirle: papà, papà. Galati dice: per quanto siete figli, Dio ha inviato a noi lo Spirito Santo che grida in nostri cuori. Questo è bellissimo. Lo Spirito Santo che conosce al Padre, che conosce quanto Lui ha un cuore di padre. Lo Spirito Santo grida dentro di noi, grida: Abba Padre, Abba Padre. Che sta dicendo? Papà, come Giovanna, come i nostri figli. Papà, corre. E dice: Papà, lo Spirito Santo produce questo in noi, perché sa quanto importante è questo per Dio. Per questo Gesù dice: voi quando pregate, pregate così: Padre nostro, Padre nostro. Vorrei, non voglio saltare niente per quello. Quando diciamo in plurale Padre nostro, che cosa stiamo dicendo? Chi è il mio padre? È Dio. Chi è il tuo padre? Dio. Chi è il tuo padre? Dio. Chi è il tuo padre? Dio. Il tuo padre è Dio. Noi abbiamo lo stesso padre, lo stesso papa. Mamma mia, questo produce in noi un legame, una relazione, un rapporto molto importante. Siamo tutti figli dello stesso papa, e lo stesso papà che è Dio. Quanto importante anche noi come chiesa, come popolo, come famiglia, quanto importante abbiamo lo stesso papà. Mio rapporto con voi, con ognuno, è molto, molto importante, perché abbiamo lo stesso papà. Abbiamo lo stesso papà. Amen. Voglio andare, perché ho detto questa è una preghiera e dobbiamo pregarla. Dobbiamo pregare, perché questo è un insegnamento molto importante, però anche è una preghiera. Padre nostro che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome. Padre, Padre, nostro Padre, santo, santo, santo, santo, e merita essere lodato, essere adorato nella sua santità, che noi le adoriamo la sua santità. Lui merece tutta la gloria. Nostra preghiera deve iniziare così, riconoscendo, sapendo che stiamo parlando con il nostro Padre. Papà, papà, correre verso di Lui, abbracciarlo, ricevere il suo abbraccio di Padre. Forse molti non abbiamo il nostro Padre, io già non l'ho, forse molti per diverse situazioni, può essere anche per una morte, può essere anche per una situazione familiare, però sappiamo che abbiamo un vero Padre. Un vero Padre che ci ama e che questo Padre è Dio. Amen. E merita essere lodato e adorato nella sua santità. Vorrei che ci fermiamo un attimo in questo verso. Forse il tempo dopo andremo più veloce, però questo è il primo verso, per me è troppo importante, molto importante. Possiamo prendere dei minuti per pregare? Non so se volete essere seduti o in piedi o in ginocchiare, come volete. Preghiamo per lodare a Dio, per ricorrere verso di Lui. Quanti hanno bisogno di un abbraccio? Di un abbraccio del Padre? Quanti hanno bisogno? Quanto hanno bisogno di un abbraccio di Dio? Questo è lo che Gesù sta dicendo. Chiamatelo così, pregate così, Padre, Padre nostro. Prendiamo un paio di minuti per pregare. Chiudiamo i nostri occhi. Corriamo verso il nostro Papa. Diciamole Padre. Questo è lo che Gesù ci chiede. Pregate così. Dile Papa. Dile Padre. Vieni al tuo Papa. Corre verso tuo Papa. Abbraccia. Ricevi l'abbraccio del tuo Papa. E lodalo. Riconoscelo in la sua santità. Lui è santo, santo, santo. E ci santifica in Cristo Gesù anche a noi. Ci fa diventare santi anche non lo meritiamo. Però questo è il nostro Papa. Papa. Signore. Grazie papà, grazie papà. Grazie per il tuo cuore, Signore, per il tuo abbraccio. Grazie per aver pensato in me, perché hai pensato in ognuno di noi, Signore. E perché tu ci vuoi bene, Signore. Ci ami, Signore, grazie. Grazie per il tuo abbraccio. Quanto bisogno abbiamo del tuo abbraccio, papà. Grazie, Signore, grazie. Vogliamo essere come bambini, Signore. Vogliamo essere come bambini e correre verso di te ogni giorno, Signore. E chiamarti papà, papà, Padre nostro. Grazie, Signore. Grazie. Amen. Amen. Amen. Amen. Possiamo continuare. Andiamo al prossimo verso, che è tutto a vedere con il nostro papà. Andiamo al verso seguente, il verso 11. No, forse il 10. Ah, stava già, ma sono io che sto. Venga il tuo regno. Questo è molto importante. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, anche in terra. Molte volte nella Bibbia succede così, che sta scritta la prima frase e la seconda frase rinforza e dà significato più forte alla prima frase. Venga il tuo regno, vuole dire sia fatta la tua volontà come in cielo anche in terra. Quando parliamo del regno parliamo del re, di un re che è Dio, e parliamo di un popolo che siamo noi. Quando parliamo del regno di Dio parliamo del governo del Dio, del governo del re. Venga il tuo regno, un regno spirituale, un regno che non si può vedere, però è così reale, così forte, che quando viene il regno di Dio le tenebre se vanno via. Perché è un regno di luce. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come si fa nel cielo, che si fa anche qui nella terra, nella mia vita. Vorrei che anche questo è un punto per pregare, no? Un punto importante della preghiera. Vorrei che pensiamo in questo. Venga il tuo regno, Signore, venga il tuo regno sulla terra, però iniziamo anche per noi. Venga il tuo regno, Signore, alla mia vita. Possiamo pregare così? È una preghiera, eh? Possiamo pregare il Padre nostro insieme? Signore, venga il tuo regno alla mia vita. Sia fatta nella mia vita, sia fatta la tua volontà. Come si fa nel cielo, che si fa anche qui, nella terra, nella mia vita. Possiamo pregare così? Signore, venga il tuo regno, sia fatta nella mia vita la tua volontà. Nella mia vita, in ogni area, in ogni area della mia vita, sia fatta la tua volontà. Mi allontano un po' da me stesso, la cosa più vicina che ho è la famiglia. La famiglia è molto importante. Dio non vuole salvarmi solo a me, vuole salvare anche alla mia famiglia. E la famiglia è molto importante. E sappiamo che nella famiglia a volte ci sono difficoltà, ci sono tensioni, ci sono persone che ancora non conoscono il Signore. Forse, non lo so, il papà o il partner, la moglie, il marito, i figli che non conoscono ancora il Signore, i nonni. A volte sono anche litigi dentro della famiglia. E come possiamo pregare per la famiglia? Io per mio padre ho pregato tanti anni per la sua salvezza. Alla fine il Signore, prima di morire, 2 mesi prima di morire, mio padre ha ricevuto il Signore, no? A volte non sappiamo già come pregare, abbiamo pregato tanto per questo. Sapete come possiamo pregare? Gesù ce lo dice. Venga il tuo regno. Signore, venga il tuo regno. Venga il tuo regno alla mia famiglia. Venga il tuo regno al mio matrimonio. Venga il tuo regno ai miei figli, ai miei genitori. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà nella mia casa. Sia fatta la tua volontà in mia moglie. Sia fatta la tua volontà in miei figli. Sia fatta la tua volontà. Come si fa in cielo, si fa anche nella mia casa, nella mia famiglia. Quando noi preghiamo, stiamo invocando il regno di Dio, stiamo portando il regno di Dio alla nostra casa, alla nostra famiglia. È molto importante. Venga il tuo regno ai nostri giovani, venga il tuo regno al mio fidanzamento, no? Sto parlando per i giovani, no? Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, non la mia, la tua volontà. Dammi la persona giusta, Signore, la persona che tu hai per me. Venga il tuo regno al mio matrimonio. Venga il tuo regno, Signore, che noi sia fatta la tua volontà. Se mi vado un po' più lontano, mi trovo nell'ambiente forse del lavoro o della scuola o dell'università. Signore, venga tu regno a quell'ambiente, venga tu regno a miei colleghi del lavoro, venga tu regno, sia fatta la tua volontà, che ogni cosa che si fa nel lavoro dove sto, che sia fatta la tua volontà, non la mia, Signore. Venga tu regno alla scuola, ai miei compagni di scuola, venga tu regno ai miei compagni dell'università. Possiamo pregare così? Io credo che Gesù ci sta dicendo, pregate così. Sì, però sì, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Preghiamo, è una preghiera, eh? Possiamo alzarci in piedi, un paio di minuti, preghiamo. Preghiamo le due, se vuoi pregare con un altro, anche in questo, forse sì, puoi chiedere preghiera per una situazione speciale nella tua vita, nella tua famiglia. Però preghiamo con questo pensiero, sia fatta, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. No? Preghiamo, scegli qualcuno a fianco, se vuoi pregare anche da solo. Però preghiamo, Signore, sia fatta. E questa è una preghiera, per quello dobbiamo pregare, perché è una preghiera. Preghiamo, Signore. Amen, Signore. Sì, Signore, venga il tuo regno, Signore, venga il tuo regno, venga il tuo regno sulla nostra vita, Signore, sulla nostra famiglia, su ogni area della nostra vita, Signore, su ogni angolo della nostra casa, Signore, della nostra famiglia, su ogni persona, venga il tuo regno, Signore, anche sull'Italia, Signore, su Modugno, sulla Puglia, su tutta l'Italia, venga il tuo regno, Signore. Signore, che tante famiglie, che tante persone possono conoscerti ancora, Signore. Venga il tuo regno, sia fatta, Signore, la tua volontà, Signore. Venga il tuo regno, Padre. E nel nome di Gesù, Signore, te preghiamo, Padre, venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà. Amen, Signore. Amen. Amen. Amen. Possiamo accomodarci. Grazie. Andiamo al prossimo verso. Anche devo andare più veloce perché il tempo non mi sarà facile. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Quotidiano vuole parlare, quella parola quotidiano mi parla di qualcosa di speciale, di ogni giorno, no? E a volte quando parliamo di questo sappiamo che stiamo chiedendo sul sustento, lo che abbiamo bisogno per il vivere, per il mangiare, per il vestire. E dacci oggi il nostro pane quotidiano. Quotidiano è qualcosa che dobbiamo cercare ogni giorno. Non soltanto ogni una volta all'anno, ogni giorno essere conosciente di che Dio ci dà il pane quotidiano. È Dio, come Padre, qui sta il cuore del Padre, no? È il Padre che provvede per i suoi figli ogni giorno. Dacci oggi il pane quotidiano. È logico, possiamo pensare che il sustento, il mangiare, il vestito, lo necessario per vivere, questo sta dicendo questo verso, però credo che c'è molto di più ancora. Gesù dice, in Matteo 4 dice: non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che viene della bocca di Dio. Anche questo è un nutrimento, questo è un pane, questo è una cosa che dobbiamo nutrirci, di ogni parola che viene della bocca di Dio, perché parla di un pane quotidiano. Questo mi fa pensare anche un pensiero mio, no? Però io credo che Gesù fa un po' riferimento alla manna del deserto. In diverse parti della Bibbia fa questo riferimento Gesù, anche dice: io sono la manna che è venuto del cielo, che dobbiamo mangiare di lui. Quello era una cosa che la gente non capiva, no? E io credo, come il popolo che andava per il deserto, un popolo di più di 3 milioni di persone che andava per il deserto, come si nutriva? Dio faceva scendere sempre il pane, una porzione per ognuno, e non potevano mangiare il pane di ieri, non serviva, dovevano mangiare il di oggi. Per quello dice pane quotidiano. Io credo che Dio anche, non so, ho questo pensiero, che Dio prepara ogni giorno una porzione per noi. Di pane, di una porzione nuova, fresca. Non posso mangiare la di ieri e di ieri. Oggi Dio ha un'altra porzione, ha un'altra manà per noi, e che dobbiamo andare a prendere quella manà per la nostra vita. Perché non solo di pane, del pane fisico, del bisogno fisico, abbiamo un bisogno spirituale, e dobbiamo nutrirci anche ogni giorno. A volte viviamo di un'esperienza con il Signore, con lo Spirito Santo di 10 anni fa, ma non serve quello. Dio ha qualcosa di nuovo oggi. Oggi ha preparato, ogni giorno Dio prepara, io sono convinto, prepara una porzione nuova per ognuno di noi, perché è il nostro Papa, e dobbiamo vivere e mangiare il pane di ogni giorno. Siamo onesti, a volte non abbiamo neanche la forza di pregare. Signore, vengo, non niente di parola. Dile Signore, apro la Bibbia, Signore, vengo a cercare la mia manà. Vengo a cercare il mio cibo spirituale. E lascia che il Signore ti parli, lascia che il Signore fa, perché sono convinto che Dio prepara ogni giorno qualcosa speciale per la nostra vita. Non trascuriamo questo. Presentiamoci ogni giorno avanti al Signore con la sua parola, perché è un cibo, un nutrimento spirituale che abbiamo bisogno di questo. Come abbiamo bisogno del pane, dice Gesù, per vivere, ma non solo di quello possiamo vivere, viviamo anche della parola di Dio. Beh, possiamo pregare un attimo soltanto, veniamo a cercare il nostro pane, il nostro sustento materiale, ma anche lo spirituale, che è molto importante, tanto o di più che il materiale. Preghiamo, Signore, grazie per il tuo sustento, Signore, per il sustento che tu ci dai ogni giorno, Signore, per il tuo pane, Signore, per il mangiare, per il vestire. Signore, siamo grati, siamo conoscenti, Signore, che questo proviene da te, Signore, non è da noi stessi, Signore. Tu ci dai di una forma o un'altra, Signore. Tu sei un padre responsabile, e che ci nutre, ci dai lo necessario, Signore. Però anche veniamo a cercare, Signore, che ogni giorno possiamo cercare questo nutrimento spirituale, la porzione che tu ogni giorno prepari per noi, Signore. Non possiamo mangiare la di ieri, Signore. Tu ci dai qualcosa di nuovo ogni giorno, Signore. Ti ringraziamo per questo, ma anche ti chiedo perdono, almeno per me, e credo che per possiamo tutti chiederti perdono. Quante volte trascuriamo questo, Signore? Non andiamo a cercare, non andiamo a cercare questo pane, non andiamo ogni giorno a stare nella tua presenza, a darti l'opportunità a te di darci qualcosa che tu hai preparato per noi, Signore. E noi lasciamo passare a volte la giornata senza prendere lo che tu hai preparato per noi. Perdonaci, Signore, quando trascuriamo questo. Padre, te lo preghiamo nel nome di Gesù, Signore, perdonaci. Amen, Signore. Amen. Amen. Ancora abbiamo due passi, non so come farò, però riusciremo, che il Signore mi aiuti, ci aiuti. Questo anche Dio lo ha messo dentro del Padre nostro. Questo prossimo verso vuole dire che è molto importante. Cercherò di andare veloce, non lo prometto. Rimetteci i nostri debiti, come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Che vuole dire? Perdonaci, Signore, perdonaci i nostri peccati, come noi perdoniamo anche agli altri. Dopo, c'è un dopo il Padre Nostro, ci sono due versi che dopo lo leggerò veloce, che dice che se noi perdoniamo, Dio ci perdona, però se noi non perdoniamo agli altri, Dio non ci perdona. Mamma mia, questo mi spaventa. E c'è una storia che racconta Gesù su questo. Vorrei che la leggiamo tutti insieme e prestiamo attenzione con questa storia. So che forse la musica la possiamo... O la puoi fare piano piano, scusami, però dobbiamo leggere questa. Però grazie Giuseppe, scusa. Questa storia è molto importante, no? Vado a leggerla veloce. Perciò il regno dei cieli può essere paragonato, sta parlando del regno dei cieli paragonato a questa storia. Un re che vuole fare i conti con i suoi servi. Avendo cominciato a fare i conti, gli fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti. Quella è una quantità incredibile. E poiché quello non aveva i mezzi per pagare, il suo signore comandò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e tutto quanto aveva, e che il debito fosse pagato. Perciò il servo, gettandosi a terra, gli si postrò davanti dicendo: Signore, abbi pazienza con me e ti pagherò tutto. Il signore di quel servo, mosso a compassione, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Mi fermo qua. Questa è la nostra storia. 10.000 talenti è una quantità che non si può neanche immaginare. Un talento, 6.000 giorni di lavoro, 6.000 denari. 6.000 giorni di lavoro, un talento. E 10.000 talenti, pensate, Dio ha messo una quantità, Gesù lì molto alta, che erano i nostri debiti con Dio. Non potevamo pagarli, ma Dio ha avuto misericordia con noi e ci ha perdonato tutti, ha cancellato tutti i nostri debiti. Questo è lo che è successo con questa storia, no? Ma quel servo uscito trovò uno dei suoi conservi. Guardate che ha fatto questo servo, no? Che gli doveva 100 denari, il salario di 100 giorni, di 3 mesi di lavoro, che doveva 100 denari, e afferratolo lo strangolava dicendo: paga quello che devi. Perciò il conservo, gettandosi a terra, ha fatto lo stesso che lui lo aveva fatto, lo pregava dicendo: abbi pazienza con me e ti pagherò tutto. Ma l'altro non vuole, anzi andò e lo fece imprigionare finché avesse pagato il debito. I suoi conservi, veduto il fatto, ne furono molto rattristati e andarono a riferire al loro signore tutto l'accaduto. Allora il suo signore lo chiamò e gli disse, a sé e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu me ne supplicasti. Non dovevi anche tu avere pietà del tuo conservo, come io ho avuto pietà di te? Il suo signore adirato, mamma mia, lo diede in mano degli aguzzini fino a quanto non avesse pagato tutto quello che doveva. Oh. Così farà anche il Padre mio celeste se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello le sue colpe. Sapete perché mi spaventa? Mi spaventa veramente. Mi fa, perché se questo è vero e io non perdono a qualcuno quei peccati che Dio mi aveva perdonato, mi sta dicendo che quei debiti che Dio mi aveva cancellato, mi sta dicendo che quei debiti tornano. Mamma mia, sarà così? Che pensate voi? Sarà così importante che Gesù lo ha voluto mettere in questa preghiera del Padre Nostro? Sarà che noi lottiamo a volte perché stiamo male fra di noi, perché non abbiamo il perdono con un credente o con una persona non credente? Vado veloce. Marco 15, guardate che dice Gesù. Quando vi mettete a pregare, è la preghiera, se avete qualcosa contro qualcuno, qualsiasi sia, perdonate, affinché il Padre vostro, che è nel cielo, vi perdoni le vostre colpe. Ma se non perdonate, neppure il Padre vostro che è nel cielo perdonerà le vostre colpe. Mamma mia, quando pregate, quando inizia la preghiera, perdonate. Se c'è qualcuno che ti ha fatto un male, ti ha ferito, perdonate. Ti farà bene a te e farà bene anche all'altro. C'è un legame, e la mancanza di perdono c'è un legame spirituale satanico, è qualcosa che opprime la vita. E questo anche mi spiega perché tante persone vivono in un'amarezza, vivono una vita in un'amarezza, anche credenti, anche noi credenti possiamo cadere in questo peccato di non perdonare. Con la stessa grazia che abbiamo ricevuto da Dio, Dio vuole che la stessa grazia noi possiamo applicare su altri. Matteo 6, questo è subito dopo il Padre Nostro, perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre Celeste perdonerà anche a voi, ma se voi non perdonate agli uomini le loro colpe, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Ma questo mi preoccupa, no? Mi preoccupa. Come non posso andare più del tempo, ci faccio l'ultimo punto e dopo ci fermiamo a pregare per questo, per la mancanza di perdono, no? Che questo possiamo, nel nome di Gesù, nella preghiera, trovare la forza per perdonare. A volte non è semplice, non dico che sia semplice, a volte sono ferite forti, però il Signore ci manda a perdonare. Ma andiamo al verso 13, lo mettiamo insieme, perché sì, il verso 13, il prossimo, eccole. E noi, non ci esporre alla tentazione, ma librarci del maligno. Perché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria in eterno. Amen. Non ci esporre alla tentazione, che vuol dire librarci della tentazione. Librarci di ogni attacco del maligno. Fratelli, viviamo in un mondo pieno di tentazione, dove il peccato è una moda. Si è fatto una moda. È fuori di moda è vivere una vita pura. Viviamo in un mondo che siamo circondati di tante, tante tentazioni. E non solo tentazioni, quando pensiamo alla tentazione possiamo pensare alla tentazione di natura sessuale, ma anche la tentazione di parlare l'uno dell'altro, di parlare male dell'altra persona. E questa è una tentazione. Io a volte cado in questo, perdonami Signore, perdonami. Perché è una tentazione di criticare, di murmurare l'uno contro l'altro. È una tentazione. La tentazione di spettegolare, di essere orgogliosi. La tentazione di mentire. Ci sono anche la tentazione di non dire la verità, di dire una bugia per uscire di una situazione che mi è complicata. La tentazione nel gestire il denaro di una maniera disonesta. Anche questo, Signore, che librarci di ogni tentazione, Signore. La tentazione di abbandonarci a una dipendenza, di un vizio. Possono essere tante, tante tentazioni. La tentazione della dipendenza di un vizio in eccesso, di un eccesso come l'alcol, che in una misura forse non è buona, non è mala, però può essere anche una dipendenza, il fumo, la tentazione di una droga. O della pornografia, che queste cose producono una dipendenza, un legame spirituale, ci legano spiritualmente. Signore, dice: a te appartengono il regno, la potenza e la gloria. Il Signore è potente, Lui è il Re, Lui è potente per librarci di ogni tentazione. Noi dobbiamo accudere a Lui, andare a Lui. Signore, ogni giorno librarci della tentazione, non lasciare così, non lasciare andare, continuare con la tentazione. Ogni giorno, Signore, librarci di ogni tentazione, librarci di ogni mancanza di perdono. Vorrei finire già, e che il Signore ci aiuti in questo, ci aiuti in queste cose che lottiamo, queste cose che stanno dentro del Padre Nostro, vuol dire che sono molto, molto importanti per noi, e Gesù vuole ricordarci queste cose. Preghiamo, ci siamo in piedi e preghiamo. Preghiamo. Oh, Signore. Signore, Tu sei buono. Tu sei buono e vuoi che la Tua bontà, noi come figli Tuoi, usiamo la Tua bontà anche per altri. Con la Tua grazia, che Tu sei abbondante, Signore, la Tua grazia, che la Tua grazia, Signore, noi possiamo usarla anche con altri. Noi come figli tuoi dobbiamo assomigliare a te, assomigliare a Gesù e essere sempre come te, con il tuo amore così grande, Signore, come tu ci perdoni, Signore, come tu ci hai perdonato, che noi possiamo anche perdonare altri. Aiutaci, Signore, aiutaci. Ogni ferita, Signore, Signore, perdonaci perché a volte parliamo l'uno dell'altro, Signore, perché a volte ci lasciamo andare con queste cose, Signore. Perdonaci, Signore, e liberaci, Signore, di ogni tentazione, Signore. Di ogni tentazione. Libera i nostri bambini, Signore, perché l'nemico attacca di una maniera cruele, Signore, una crudele, in una maniera senza nessuna pietà. Signore, vogliamo coprire a nostri bambini, Signore. Libera i nostri bambini di ogni tipo di tentazione, di ogni tipo di attacco del maligno, Signore. Libera i nostri bambini quando vanno a scuola, quando escono con i suoi amici, Signore, libraci, Signore, libra nostri bambini, Signore, nel nome di Gesù, Padre. Padre, ti preghiamo anche per nostri giovani. Signore, ci rendiamo conto che ci sono tanti attacchi quando vanno a scuola, quando vanno all'università, sono esposti a tanti attacchi dell'nemico, a tante tentazioni, Signore. Libra, Signore, libra nostri giovani, libra di ogni attacco, di ogni tentazione di fornicazione, di peccati sessuali o di qualsiasi indole, Signore. Libra i nostri giovani, Signore, nel nome di Gesù, Padre. Libraci, Signore, libraci anche i nostri matrimoni, Signore, nostra famiglia. Libraci di ogni pensiero di adulterio, di ogni pensiero di che non appartiene a te, Signore. Libraci, Signore, libraci, Signore, libraci, Padre, di ogni tentazione. Tu hai potere, Signore, tu hai la potenza per librarci, Signore. Libraci, Padre, nel nome di Gesù. Libraci, Padre, te lo preghiamo, Signore. Oh, Signore, preghiamo questo.